Investire informati. La data per la chiusura e quindi l'apertura, la chiusura del roadshow e l'apertura della trattazione del titolo è il 27. Penso che però sia un giorno importante oggi per fare anche un po' una considerazione di tipo più generale. Questo IPO, che è l'IPO più grande d'Europa, che oggi è un IPO italiano, di un'azienda pubblica italiana, è anche un giorno in cui l'Italia è al centro dell'interesse degli investitori internazionali. Le cifre vedremo, le stabilirà il mercato. È importante che lo Stato abbia confermato in tempi molto rapidi e portato sul mercato un'operazione che riguarda fino al 40% del capitale di Poste. Quindi una cifra importante che lo Stato utilizzerà per l'abbattimento del debito, ma come il governo stesso ha indicato, un'operazione che ha un significato segnaletico nei confronti della comunità internazionale. Questo era l'amministratore delegato di Poste Italiane Caio, intervistato dalla nostra Anna Marino. Senza entrare nel merito delle caratteristiche di questa azienda, delle quali abbiamo discusso a lungo venerdì, oggi vorremmo puntare su tutte quelle cose che deve sapere un piccolo risparmiatore che si sta chiedendo se puntare o no su questa operazione, su questo collocamento. Dunque, quali sono le caratteristiche di questa IPO? Quali sono gli aspetti che devono essere tenuti in considerazione quando si sottoscrive un'azienda che si quota in borsa per la prima volta o quando si sottoscrive un'azione di una società che si privatizza, perché questo è il valore, l'aspetto più importante dell'operazione Poste in borsa? Allora abbiamo invitato a farci un po' di consulenza su questi aspetti il dottor Fabio Perna, titolare dello studio di consulenza finanziaria indipendente B-Money Consulting da Tivoli. Non è venuto a nuoto stranamente, ma ci è mancato poco. Ho provato ma non sono riuscito. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno anche da Milano. Eccoci qua oggi. Buongiorno e tanti auguri, visto che ho sentito che lo studio è in festa. Sì, per adesso io brioche col cioccolato non le ho viste, dottor Perna, me le hanno solamente promesse, però spero no, di meritarmele. Non ce ne avete mandate neanche qui a Roma. Perché c'è stato il deterrente di Ongaro che in qualche maniera limita. Ecco, ma adesso che non ci vede, non ci sente, io un morso glielo do. Intanto ai nostri ascoltatori che stanno facendo qualche riflessione sull'operazione di quotazione di Poste Italiane, il numero verde è sempre lo stesso, è l'800240024. Chiedo loro naturalmente qualche supporto per la trasmissione di oggi. Sapete come funziona questa operazione? Sarebbe per voi la prima volta aderire ad un IPO? Perché avete scelto proprio Poste? Intanto, dottor Perna, le chiedo subito un commento alle parole di Caio che abbiamo appena sentito. Abbiamo detto che è la più grande IPO italiana da anni, tra i più grandi d'Europa da tempo. Un suo pensiero su questa iniziativa? Ma diciamo che prima di entrare poi nei numeri e nelle caratteristiche dell'operazione, ritengo che sia importante per il nostro paese il fatto di ritornare al centro dell'attenzione della comunità finanziaria internazionale con un'operazione che al di là del fatto poi se sia effettivamente la più grande comunque anche a livello europeo, comunque permette di portare la nostra nazione e un pezzo della nazione alla ribalta internazionale e riportare molto probabilmente anche una attenzione al nostro mercato finanziario, che sappiamo benissimo ha estrema necessità di attenzioni di investitori istituzionali, di investitori stranieri per crescere nei volumi e crescere soprattutto anche per un impiego più continuativo e duraturo nel tempo. Ecco, le chiedo anche un giudizio invece dal punto di vista del suo, come dire, della sua professione, un pensiero da consulente finanziario che in tutta probabilità in questo periodo si sta sentendo fare molte domande dalla clientela sulla potenziale validità di questo investimento. È chiaro che non lo si può prevedere a priori, ma in genere una società che si privatizza, anche se molti ascoltatori contestano il fatto che stiamo continuando a parlare di privatizzazione, ma è una società controllata al 100% dallo Stato, per cui non saprei come definire diversamente il fatto che una fetta di capitale di Poste vada in borsa. Ecco, in genere una società che si privatizza offre opportunità diverse da un collocamento in borsa di tipo tradizionale, secondo lei? Allora, diciamo che in linea generale la storia delle privatizzazioni in Italia, che parte dal 1994 con la prima operazione che riguardò IMI diciamo con questa lunga storia che ha portato sostanzialmente nelle casse dello Stato oltre 95 miliardi di euro, in tutte le operazioni ci sono sempre stati dei sistemi premianti. Questo è secondo me l'aspetto che può far la differenza tra una normale IPO e cercando di allinearsi al termine che è molto più utilizzato, così usciamo, accontentiamo qualche ascoltatore dal discorso della privatizzazione, anche se di fatto si tratta di una privatizzazione. Questo può essere uno degli aspetti di caratterizzazione rispetto ad una normale IPO. In questo caso penso che avremo modo di entrarci anche successivamente. C'è anche un discorso programmato di payout, quindi di riconoscimento dei dividendi in una misura sostanzialmente già predeterminata in termini di percentuale che verrà distribuita agli azionisti rispetto agli utili che la società potrà effettuare nei prossimi due esercizi. Allora, il fatto della privatizzazione viene contestato perché anche Andrea, un altro ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666, insiste sul fatto che comunque andando in borsa qualcosa come meno del 40% del capitale, ancora il 60% rimane in mano allo Stato, allora per questo non si può parlare di privatizzazione piena. Va bene, allora concedeteci oggi qualche licenza linguistica e di fatto insomma parliamo della quotazione delle Poste Italiane per questa fetta di capitale. Andiamo alle caratteristiche dell'operazione, cominciando ad addentrarci negli aspetti che possono interessare i piccoli risparmiatori, anche se tra un minuto vedo già il tempo che corre, devo andare a parlare appunto della giornata di borsa di oggi che è molto positiva. Allora, dicevo appunto, in borsa andrà il 38,2% delle azioni, in realtà ci va qualcosa in meno poi con l'esercizio della cosiddetta opzione Greenshoe, adesso spiegheremo che cos'è, si arriverà fino a questa soglia. Poste mette in vendita il 34,7% del capitale, il 70% è destinato ad investitori istituzionali che leggiamo dai giornali stamattina hanno già coperto praticamente interamente tutta l'offerta, e il 30% ad investitori retail, e poi in questi appunto commenteremo anche la quota che è riservata ai dipendenti. Allora, sul prezzo, le domande, che tipo di domande possono presentare i piccoli risparmiatori, dottor Perna? Un lotto minimo di quanto possono sottoscrivere? Allora, da lunedì scorso intanto è possibile andare in banca e prenotare l'acquisto di azioni della società. Potranno essere presentate domande per un minimo di 500 azioni, e considerando che il prezzo oscillerà tra i 6 e i 7,5 euro, l'investimento minimo si attesterà tra i 3.000 e i 3.750 euro. Il collocamento si concluderà il 22 ottobre, ovviamente salvo chiusura anticipata. In realtà i risparmiatori che intendono partecipare al collocamento possono scegliere tra tre profili, se non ho capito male, giusto? Sì, in questo caso il prospetto informativo, che è abbastanza articolato, disegna tre profili di potenziale sottoscrizione delle azioni. Il lotto minimo, di cui abbiamo appena parlato, 500 azioni o sui multipli. Il lotto minimo intermedio, che sono 2.000 azioni o multipli. Lotto minimo maggiorato, che sono 5.000 azioni o multipli. Ovviamente non è detto che tutte le richieste vengano assegnate, in quanto se la domanda supera l'offerta si dovrà ricorrere al sorteggio, come già è capitato altre volte, molto spesso nei casi di privatizzazioni di questa portata. Possiamo concludere anche facendo un piccolo riferimento all'offerta destinata ai dipendenti? Ecco, per quanto concerne l'offerta riservata ai dipendenti, fermo restando la possibilità anche per i dipendenti di aderire all'offerta destinata al pubblico indistinto, le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente presso i collocatori, ivi compresi gli uffici postali abilitati, per quantitativi minimi di 50 azioni, che è il lotto minimo per i dipendenti, o relativi multipli, certo, anche in questo caso. Cuore e denari. Io mi Poste Italiane si quota in borsa, se ne sente tanto parlare, stiamo parlando anche noi oggi ad Investire Informati, vogliamo sapere da voi quali sono i dubbi, gli aspetti poco chiari di questa operazione, come sempre dal punto di vista del piccolo risparmiatore. State pensando allora di investire, come funziona? Avete capito tutta la dinamica di un'operazione complessa? Solamente a giudicare dalla entità del prospetto informativo ci rendiamo conto quanto sia necessario essere consapevoli ed informati per intraprendere un investimento di questo tipo, che è frutto appunto anche di una parziale privatizzazione, passatemi il termine, tutti gli ascoltatori che ci stanno contestando questa espressione questa mattina. 800 24 00 24, con noi il dottor Fabio Perna, titolare dello studio di consulenza finanziaria indipendente Bimani Consulting. Allora, altre cose da sapere oltre a quelle che abbiamo spiegato nella prima parte della trasmissione, dottor Perna? Gli azionisti che conservano i titoli assegnati in collocamento per 12 mesi, che cosa viene offerto? C'è una sorta di premio fedeltà. Il bonus share, quindi viene offerto un bonus di un'azione gratuita per ogni 20 assegnate, quindi un bonus del 5%. Questo bonus diventa del 10% per i dipendenti, in quanto loro ricevono un'azione gratuita ogni 10 assegnate. Gli azionisti riceveranno anche un dividendo almeno per i primi 2 anni. È prevista la distribuzione di una percentuale non inferiore all'80% dell'utile netto consolidato delle 2015 e 2016, il payout di cui parlavamo prima, esatto. Introdotto il concetto. È interessante, prima. Lei che comunque monitora un po' anche il valore delle azioni in borsa e gli investimenti azionari dei clienti che segue, un payout interessante. Ma è interessante secondo me il concetto che perlomeno per i prossimi 2 esercizi sia già stabilita la percentuale che verrà riconosciuta. Allo stato attuale è comunque un titolo capace di generare un dividendo interessante, per cui le prospettive, certo, stimabili perlomeno per i prossimi 2 esercizi sono, sotto il profilo del dividendo, sicuramente interessanti. Anche perché, date le oscillazioni che stanno vivendo i mercati in questo momento, non è che esattamente tutte le società siano in grado di avere una visione chiara, almeno sulla politica di remunerazione agli azionisti nell'arco di 2 anni. Per cui assolutamente è importante. Assolutamente. Questo non significa che noi stiamo sponsorizzando questo investimento, per carità del cielo. Stiamo, Nicoletta, guarda, mi aspettavo che avresti detto questa precisazione che d'obbligo, no, ma insomma, ecco, noi tendiamo a ripeterlo, ad essere caute, esatto, sì. Allora, quando conosceremo peraltro il prezzo definitivo dell'azione? Perché ovviamente tutto dipenderà da come andrà questo collocamento che si conclude nei prossimi giorni. L'offerta prevede che vada sul mercato il titolo Poste Italiane fra i 6 euro e i 7,5 euro. Gli investitori istituzionali stanno già alla grande facendo richiesta di questa azienda, e appunto, come dice anche il Sole 24 Ore questa mattina, e adesso questo lo spiegheremo anche ad un ascoltatore che ci sta facendo una considerazione proprio su questo, gli investitori istituzionali hanno già praticamente coperto tutta l'offerta che l'azienda ha fatto. Adesso spieghiamo questo aspetto, per l'appunto. Ma noi il prezzo definitivo quando lo conosceremo, dottor Perna? Il prezzo definitivo sarà definita al termine del periodo di offerta, quando il Ministero determinerà appunto questo prezzo, che sarà il minore tra il prezzo istituzionale e il prezzo massimo dell'offerta, che è fissato in 7,5 euro. Su questo ovviamente i dati che trapelano sulle offerte che arrivano dagli investitori istituzionali, che sembrerebbe abbiano già saturato il volume a loro riservato, ovviamente potrà determinare da qui al termine del periodo di collocamento l'eventuale innalzamento del prezzo, certo, perché sembra che in questo momento la domanda sia concentrata nel range tra 6 e 6,5 euro. Ovviamente, se si mettessero in coda altri richiedenti, naturalmente dovrebbero offrire qualcosa un prezzo in più, superiore, per riuscire ad entrare, alzando, esatto, ovviamente il prezzo. E allora vediamo se abbiamo chiarito gli aspetti che era necessario chiarire per Angelo dalla provincia di Pavia. Angelo, buongiorno. Sì, ma forse ho capito male, perché stamattina alla radio ho sentito, sì, che siccome il collocamento delle azioni è stato completato, il risparmiatore che volesse investire oggi non lo può più fare? No, lei può ancora prenotare ancora il lotto andando in banca. Allora ci spiega un po' meglio questa dinamica, dottor Perna, credo che sia ancora possibile farlo. Assolutamente, naturalmente. Sì. Cioè, la domanda da parte degli investitori può essere anche quadrupla rispetto all'offerta, poi una volta che si avrà questa fotografia finale si deciderà se andare a riparto, e magari se io ho prenotato 3 lotti è possibile che me ne venga assegnato uno. Assolutamente, ecco. Sì, assolutamente sì. le IPO rimangono in piedi fino a quando ovviamente non si decide di fare una chiusura anticipata, che tendenzialmente viene posta in essere quando c'è una domanda veramente eccezionale, multipla rispetto a quella che è l'offerta. Altrimenti, come abbiamo avuto modo in occasione all'inizio della trasmissione di dire, io faccio ad esempio una richiesta per il lotto minimo 500 pezzi, può anche non essermi aggiudicato l'intero lotto da 500 pezzi qualora si debba procedere al riparto. Però a tutt'oggi il risparmiatore può assolutamente fare sottoscrivere la domanda di adesione per richiedere la sottoscrizione delle azioni. Ed è quello che sta tentando di fare Gaetano da Frosinone, ma sta trovando qualche ostacolo lungo il suo percorso. Certo. Hai visto, Nicoletta? Gaetano. Buongiorno a lei, buongiorno a voi, a tutti quanti. Ci dica. Niente, il mio problema è questo. Io dove abito non c'è lo sportello bancario di cui mi servo. Chiaramente, ho cercato di farlo online, perché io faccio spesso trading online, ma non posso farlo. Cioè, mi è apparso un po' così, volevo protestare. Allora, difficoltoso, ecco. Perché? Perché allora in realtà, da quello che ci risulta, a me Fabio Perna, quasi tutte le banche che offrono, soprattutto se lei dice che già fa trading online, è abbastanza strano che sul suo conto titoli non riesca ad avere l'accesso alla prenotazione di un lotto appunto di titoli Poste Italiane. Dipende dalla piattaforma che si usa, dall'intermediario, dottor Perna. Tendenzialmente in questo momento soprattutto le piattaforme o comunque le banche che offrono piattaforme per fare trading online, proprio nella sezione trading, hanno un'apposita sezione AIPO nella quale si può andare a scaricare il prospetto informativo, la domanda di adesione e tutto il resto della modulistica che vanno sottoscritti per esatto, e qua chissà quanta roba ci sarà da firmare per aderire a questa IPO. Peraltro Gaetano, un numero verde non ce l'ha questo suo... Ma l'ho fatto il numero verde, l'ho fatto ieri e mattina. E che cosa dicono? Mi ha detto no, devo andare a uno sportello. Dico, ma scusi, io dove abito non c'è. Gaetano, faccia una cosa, ma questa è proprio perché io e dottor Perna ci vogliamo togliere questa curiosità. Ci scrive a cuoredenari@radio24.it di che banca stiamo parlando, perché veramente nel 2015 mi sembra molto strano. Volevo proprio chiedere quello. Voleva l'intervento di Cuore Denari. Allora, tra l'altro mi sono scordata, ma io quasi quasi lo faccio prima del traffico, Nicoletta. Che dici, mi posso lanciare? Ma direi che il domandone bisogna farlo per dare anche la possibilità ai nostri ascoltatori di rispondere velocemente, in modo corretto, e di portarsi a casa un libro di Cuore e Denari. Siamo tutti cuffiati, manca solo il nostro compianto. Mike, buongiorno, per il nostro rischiatutto. Allora, noi stiamo parlando dell'IPO di Poste Italiane, la quotazione in borsa di questa grande azienda. Vi chiediamo che cosa significa la sigla IPO. È un termine mutuato dall'inglese, in italiano significa offerta pubblica iniziale. Vi ho detto tutto, dovete solamente tradurcelo in inglese, per cui più facile di così non potete. Ecco, IPO. Quindi testiamo anche un po' il vostro e il nostro inglese con il domandone. Valgono solo le risposte all'800240024, al più veloce come sempre un libro della libreria di Cuore e Denari. Intanto il traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Cuore e Denari. Eh sì, come sentite abbiamo la sigla del nostro personalissimo rischiatutto versione Cuore e Denari. Siamo sempre in diretta con Investire Informati. Allora, stiamo parlando dell'IPO di Poste Italiane, ovvero la quotazione in borsa di questa azienda prevista per il 27 novembre. Intanto in questi giorni l'azienda è sotto collocamento, quindi per piccoli e grandi e grandi investitori è possibile aderire appunto a questo collocamento, prenotare piccoli grandi lotti. Vi chiediamo intanto con il domandone cosa significa questa sigla, la vuoi ribadire tu, Nicoletta? Allora, dovete chiamare il nostro numero verde, state già chiamando, scrivendo al 349-238-6666, ma noi purtroppo non possiamo accettare le vostre proposte. Vi chiediamo che cosa significa questa sigla, IPO. Dobbiamo aggiungere ancora qualcosa? No, direi che siamo a posto, l'ho anche tradotta prima in italiano. Ecco. Okay. Ottimo. Allora, parlando delle poste, devo dire che la so quasi anch'io. Deborah, avrei qualche difficoltà a pronunciarla in modo corretto, Roma, in inglese, ma potrei farcela, quindi 800 24 0024. Voilà. Le poste, ricordiamo che stiamo parlando di una società che ha due anime, quella bancaria, oltre 6 milioni di conti correnti, e quella dei servizi postali, 213 milioni di raccomandate l'anno, 220 mila pacchi al giorno. Ci spiegava la settimana scorsa Nicola Borsi che come società comparabili non abbiamo un panorama ricchissimo, anche per questo è un po' complicato decidere se fare o meno un investimento in un'azienda come questa, che è certamente unica nel suo genere. Per avere una società comparabile dobbiamo arrivare fino al Giappone. Cioè e non Japan è un modo Post. Di dire, vero Deborah? No, cioè, è proprio vero, perché esatto, c'è questa società che si chiama Japan Post, è il maggior operatore bancario del sollevante, anche contemporaneamente società di assicurazione, quindi è l'azienda più simile a Poste Italiane. E tra l'altro si colloca proprio anch'essa in questi giorni il suo debutto in borsa in Giappone, previsto per il 4 novembre. E allora, dottor Perna, fare paragoni effettivamente è difficile, e quindi lei che tipo di suggerirebbe, che tipo di suggerimenti darebbe, ho fatto l'acronimo, a belle parole, ad un piccolo risparmiatore che magari vuole avventurarsi davvero in un investimento di questo tipo? È sempre capitale di rischio, ricordiamoci che investire in borsa non significa aprire un libretto di risparmio postale, stiamo parlando di due cose radicalmente diverse. Sicuramente penso che abbia toccato un argomento importante, ovviamente il termine stesso Poste Italiane in tutti, probabilmente in quelli meno giovani ancora di più, va a suscitare il concetto di sicurezza, il concetto di buono fruttifero postale, il concetto di libretto di risparmio della posta. In questo caso il risparmiatore deve essere ben consapevole che acquista delle azioni, quindi partecipa al capitale di rischio di un'azienda importante, del quale abbiamo ha rimarcato poc'anzi il business molto variegato e che trova in Europa pochi corrispondenti così specifici, frutto della riorganizzazione, dell'allargamento del ventaglio operativo che è stato operato soprattutto negli ultimi 6 o 7 anni. Però il risparmiatore deve essere consapevole che non compra di certo un bot, non compra un titolo di Stato, compra un titolo azionario. Un titolo azionario che può essere nel breve soggetto alla volatilità, che peraltro è ritornata a farsi sentire sui mercati finanziari. Compra un titolo azionario che anche nel medio periodo può ovviamente dare dei risultati altalenanti, certo, proprio in relazione a questo tipo di discorso. Quindi, per tornare alla domanda, il consiglio è sempre quello di fare una corretta pianificazione dei propri risparmi, di essere assolutamente consapevoli dell'acquisto che si fa e di inserire eventualmente questo titolo in una maniera corretta e parcellizzata all'interno del portafoglio. La parola magica qual è, Nicoletta? Differenziare. Diversificazione. Allora, tra l'altro c'è anche chi dice che un'operazione di questo tipo si rivolga ad un risparmiatore dal profilo di rischio da cassettista. È un tema che andava molto di moda probabilmente fino a qualche tempo fa, adesso ne identifichiamo un po' meno di cassettisti sul mercato, ma sono mediamente quei risparmiatori che si aspettano un adeguato ritorno dall'investimento in termini anche di dividendo, ma non solo. Qual è il profilo moderno del cassettista, dottor Perna, secondo la sua esperienza? Ma il profilo moderno non cambia, a mio modo di vedere, cambia probabilmente alcune sfumature psicologiche nell'andare a interpretare questo tipo di filosofia di investimento, ma il cassettista era e rimane a tutt'oggi un soggetto che acquista un titolo ritenendolo soprattutto in grado, con una costante politica di dividendi, di remunerare adeguatamente l'investimento che viene fatto dal risparmiatore. Mi pare che anche recentemente nella vostra trasmissione è stato ribadito il concetto che peraltro i titoli con buoni dividendi e soprattutto dividendi costanti sono quei titoli che generalmente riescono anche a difendersi meglio nelle fasi di volatilità e di discesa dei mercati. È evidente che il cassettista dovrebbe, se ritiene di essere tale, preventivare di comprare un titolo e facendo una scelta oculata, rimanendoci un po' di tempo e non facendosi prendere dalle emotività nel momento in cui il mercato scende, può avere delle sue fisiologiche scelte. Ringrazio per aver richiamato la puntata di giovedì scorso con Gianni Lupotto. Nicoletta, è un messaggio giovedì abbiamo dato con il nostro maestro Gianni Lupotto vale. Perché è facile poi farsi prendere dall'ansia e fare un po' come ma è anche comprensibile, certo. Allora, sentirei, qua è una bella sfida. Allora, velocemente, intanto abbiamo fatto il domandone. Mauro da Roma, lei sa che cos'è l'IPO? Ma credo Initial Purchase Offer. Non è proprio totalmente corretto. Mauro, sentiamo se è un po' più bravo. Peccato. Giuseppe da Bergamo. Peccato, allora, Mauro, ma se è così affranto glielo mandiamo lo stesso il libro. Giuseppe. Initial Public Offering. Qua deve scattarmi l'applauso però, perché se no qua non riusciamo a rimarcare che ha risposto correttamente Giuseppe, ma noi Nicoletta non mandiamo anche a Mauro. Ma certo, perché sennò sembra di essere un po' a scuola. Io ero sempre come Mauro, che ci andavo vicino ma non era mai la risposta corretta. Allora, Elio da Napoli, in 10 secondi la sua domanda. Sì, buongiorno, volevo appunto chiedere se la nostra IPO si possa tagliare di tenersi un investimento. Allora, sicuro. Non so se Elio, guardi, a esatto, Roma lo sentite, ma noi a Milano no, non lo sentiamo. Niente. Però Elio ci scriva, che facciamo prima, che dice Nicoletta, gli facciamo scrivere. Cuore Denari, chiocciola, radio24.it, anche per Elio da Napoli. Benissimo. E da tutti noi gli stiamo ascoltatori. Stiamo chiudendo intanto. Dottor Perna, cosa c'è da sapere dal punto di vista del trattamento fiscale su questo investimento? Allora, anche qui la tassazione è la tassazione al 26% e riguarda sia i dividendi che eventualmente si potranno avere dal titolo azionario, sia eventuali plusvalenze, il cosiddetto capital gain, che potrà essere generato dalla vendita con appunto un guadagno sull'azione. Io l'ho voluto far dire perché naturalmente non vorrei che le persone si aspettassero che investendo in titoli Poste Italiane appunto pensassero di trovare la stessa tassazione del risparmio postale tradizionale, che è invece più vantaggiosa, giusto? Ho immaginato che la domanda fosse legata a questa là. Possibile ha letto tra le righe, insomma. Sì, esatto, esatto. Allora, sì, abbiamo concluso intanto, dottor Perna. Sì, abbiamo terminato Cuore Denari, distaccate oggi, ma direi che domani ci ritroviamo senz'altro abbinate come sempre. Sei contenta? Molto. Ritorno. Anche perché avremo un grandissimo ospite a Cuore Denari. È andate vero. Un po' a vedere sulle nostre pagine, lo sveleremo nel corso del pomeriggio, forse. Perfetto. Buona giornata a tutti intanto, ciao!